Per la prima volta oggi, 8 novembre a Ginevra, le ONG italiane fanno sentire la loro voce, hanno presentato un rapporto supplementare sui diritti umani in risposta a quello presentato dal nostro governo. Ne parliamo con la portavoce delle ONG italiane a Ginevra, Carola Carozzone, responsabile dei diritti umani del VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo. Perché le ONG italiane presentano un rapporto supplementare a quello presentato dal nostro governo? Perché l'Italia è come tutti quanti i paesi del mondo, non soltanto i paesi poveri, i paesi in via di sviluppo, deve impegnarsi di più per garantire i diritti economici, sociali e culturali. Troppo spesso noi italiani e il governo italiano presumiamo già di garantire ed assicurare i diritti fondamentali, e questo non è vero per tantissime questioni che stanno emergendo qua a Ginevra. Sui diritti dei migranti, sui diritti dei richiedenti asilo, ma anche sui diritti più tradizionali, no? Come il diritto alla salute o il diritto all'educazione e ai diritti umani. Quindi il rapporto presentato dal governo si discosta molto rispetto a quello che voi dichiarate nel vostro rapporto moltissimo, come ONG? Moltissimo, nel senso che il rapporto del governo dice che è tutto perfetto, che l'Italia è perfetta, che l'Italia sa garantire i diritti umani come pochi altri paesi al mondo, che non abbiamo bisogno di un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, mentre siamo l'unico paese europeo a non avere un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani. Abbiamo tantissimi organismi e organi e strutture, ma governative, cioè dentro al governo. Invece, se pensiamo alla responsabilità legale delle multinazionali in materia di diritti umani, delle imprese italiane che delocalizzano la produzione all'estero, le responsabilità che hanno nel garantire i diritti di base ai lavoratori nei paesi dove vanno ad investire, nei paesi dove vanno a produrre, beh, in realtà degli spazi di miglioramento sono ben ben ampi. Cosa propone in sintesi il rapporto e quali sono i punti che portate all'attenzione, che avete portato all'attenzione del Comitato delle Nazioni Unite? Noi vogliamo che l'Italia si adegui alla risoluzione delle Nazioni Unite di 11 anni fa, l'unico Stato dell'Europa, dell'Unione Europea a non averlo ancora fatto, e costituisca un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, che possa essere veramente punto, fulcro di monitoraggio della situazione dei diritti umani in Italia, ma anche di promozione dei diritti umani a livello educativo, a livello di cultura dei diritti e di intercultura rispetto ai diritti dei migranti, e questo è il primo punto. Dopodiché vogliamo una strategia di lungo termine sui diritti che vada oltre l'alternanza governativa che caratterizza la politica italiana. E vogliamo l'educazione ai diritti umani come educazione in materia interdisciplinare in tutte le scuole, primarie e secondarie, e anche fino a livello secondario, non rimessa alla sensibilità del singolo insegnante, del singolo docente, ma proprio come materia obbligatoria interdisciplinare. Se vuoi ti posso dire altre cose che per noi sono altrettanto importanti, quali che l'Italia si impegni per sottoscrivere un protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che è l'unico patto internazionale fra le convenzioni fondamentali in materia di diritti umani a non avere un protocollo opzionale che consenta il ricorso individuale. Il governo italiano ancora dice che il ricorso individuale non è possibile in tanti diritti economici, sociali e culturali, cioè il diritto a condizioni di lavoro dignitose, il diritto all'educazione, il diritto all'assistenza sanitaria di base, il diritto all'educazione e all'istruzione, non sono diritti giustiziabili.